avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Ora, io questa mattina non dovrei parlare, sono stato un pessimo studente universitario. Un esempio veramente da non imitare, spero che in ascolto non ci siano miei colleghi o colleghi di università. Per ricordare l'onta di quegli anni lunghissimi, fuori corso eternamente, esami dati con escamotage, cose veramente vergognose. Però feci una bellissima tesi di laurea. Mi dettero 12 punti più la lode, quindi mi laureai con il massimo dei voti, ma in maniera immeritata, dopo un corso di studi veramente cialtrone, miserrimo. Però mi sono preso questa laurea. Ogni tanto nei miei peggiori incubi mi sveglio e dopo aver sognato che ancora sul libretto mi mancano degli esami, e mi arriva come un foglio a casa e mi dicono: no, ancora non sei laureato, devi rifare degli esami, e gli esami più difficili, adesso non mi ricordo quali fossero esattamente, filologia romanza, ma no, quello era un esame facile, esami noiosissimi, quelli che non ho voglia mai di fare, non so, letteratura francese, un esame pallosissimo con un professore mandrillo che favoriva le donne e a noi ci teneva sempre a latere, ma queste sono cose che accadono. Detto questo e chiuso questo fase autobiografica, questa mattina vorrei parlare di un dato che sembra preoccupare molte persone, dato che i quotidiani ne hanno lungamente parlato nella giornata di ieri. L'Italia, rispetto alle medie europee, rispetto anche alle nostre medie nazionali, sfornerebbe sempre meno universitari, meno laureati. L'indice di affezione degli italiani per le frequentazioni, soprattutto per il termine di regolare corso di studi, sembra diminuire in percentuale molto alta. Mi domando e ci domandiamo questa mattina cosa stia accadendo, perché mediamente gli italiani cominciano a perdere fiducia nell'università, fiducia nel corso di laurea, fiducia nell'avere il famoso pezzo di carta, come si diceva una volta, che comunque sia serve, perché tutti ce l'hanno. Perché calano le iscrizioni all'università e perché soprattutto calano gli studenti laureati? Cercheremo di analizzarlo e vederlo questa mattina con le persone che hanno fatto ricerche, hanno studiato questo dato, che sembra oggettivamente reale e concreto. Però vorrei rivolgermi a quelli che mi ascoltano questa mattina. Il problema di un figlio all'università è un problema che inizia già quando il figlio comincia a essere in età adolescenziale, per la scelta del liceo. Dopo la scuola media, già il liceo si sceglie in ragione di quello che vorrà fare da grande il ragazzo. È sempre stata una vicenda molto controversa, in cui vengono chiamati a consulenza tutti i parenti, laterali, diretti e indiretti, vengono presi chiamati a conoscenza gli amici, vengono fatti dei grandi meeting familiari per decidere dove andrà il pupo. Poi la scelta molte volte viene fatta, nella maggior parte dei casi è una scelta di comodo, è la sede più vicina, è la sede meno impegnativa, è quello che sembra tutto sommato che possa dare più tempo per decidere e per scegliere, e per avere una seconda chance di scelta. O perlomeno al contrario, molti fanno dei veri e propri investimenti. Mantenere un figlio all'università fuori sede è un grande impegno, un grande impegno messo in precaria dubbio dal fatto che molti dicono: sì, però va fuori, sta fuori, chissà cosa farà quando sta fuori. In fondo si ha l'idea di svenarsi, di perdere risorse e tempo per dare al ragazzo una grande eterna vacanza di 4 anni in cui fa bisboccia, fa quello che vuole, sì, si emancia, ma allo stesso tempo sta in vacanza, a meno che non arrivino poi i risultati. Quindi 800240024, come vi ponete voi di fronte al problema di iscrivere un figlio all'università, o come vi ponete voi di fronte al problema che iscriversi o cominciare a frequentare l'università o aver frequentato l'università non rappresenta un titolo che, come una volta perlomeno, apriva dei concreti margini di speranza di poterlo poi, una volta ottenuto, usare in maniera concreta, in maniera proficua per la propria vita. Sono iscritta presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, dove mi sono laureata nel 2002 con la votazione di 100 su 110. Ho un'ottima conoscenza della lingua inglese. Buongiorno, mi chiamo Maria Rossi, ho poco più di 20 anni e sono laureata a pieni voti in scienza della comunicazione. Hi, my name is Annalisa Borsari, I'm 26 years old and I'm graduated in economics. Buongiorno, Nome e cognome, Lucia Rosina, nata a Biella il 1968, giovane dentro. Laureata in chimica industriale, Università Statale di Milano 1993. Esistono anche degli indicatori più empirici che però danno il polso della situazione. Questo è su YouTube un'area dedicata ai video curriculum in cui le persone laureate, vedete, uno spettro di lauree del più vasto, dalle più inutili come scienza della comunicazione a quelle che dovrebbero comunque dare una concreta possibilità di impiego come chimica industriale. Uno si laurea in chimica industriale e dice: eccomi, sono pronto, chiamatemi, cosa devo fare? Invece devono trovare una maniera colorata, divertente e intrigante di mettere un video curriculum su YouTube, che è l'ultima chance, è la chance più disperata, perché un laureato con una laurea strutturata, tecnica, che può dare subito un'immediata possibilità di attuazione di una professione, dovrebbe avere già un mercato. In realtà probabilmente forse non ce l'ha. 800240024, anche voi laureati, a cosa vi è servita l'università che avete frequentato con tanto impegno e a volte con tanto sacrificio? Biondo Salvatore 101, Mersone Ferdinando 110 e lode. Grande Nando. Campisti Maria Carmela 108. Bello questo momento di tripudio che oggi diventa pubblico, perché naturalmente c'è sempre un amico, un collega, uno zio, un nipote, un fidanzato che lo riprende con il telefonino e poi lo mette su YouTube. Le sedute di laurea con le mamme, le nonne, le zie in lacrime, tutte vestite a festa come se fosse un matrimonio, poi tutti a casa con il rinfreschino, con le bottigliette di aranciata, perché anche il laureato è sempre un eterno bambino, e poi il regalo, l'orologino o l'automobile per quelli più fortunati, e poi dal giorno dopo ci si alza la mattina e si dice: sì, sono laureato, e adesso che faccio? 800240024. Abbiamo al telefono, perché vi dobbiamo cominciare a dare qualche dato rispetto a questa che semplicemente, da come l'ho sposta io, una colorita ipotesi, è Fabio Naro, che è segretario generale del CUN, Consiglio Universitario Nazionale, che appunto ha contribuito a elaborare i dati su questa crisi dell'università italiana. Fabio Naro, buongiorno. No, a lei e agli ascoltatori. Ecco, vediamo queste diminuzioni, quando poi rappresentate in un titolo, sintetizzate in un titolo, fanno molto scalpore, ma vediamo poi nell'esattezza dei numeri. I dati sulla diminuzione del numero degli iscritti, le percentuali rispetto all'ultima rilevazione, da quando si è cominciato a notare una sorta di flusso decrescente di iscrizione all'università. Sì, diciamo questo trend negativo si sta instaurando negli ultimi 3 o 4 anni e ormai siamo su valori abbastanza consistenti, insomma sopra sicuramente al 5-6%. Quindi è una riduzione che in qualche modo viene successivamente ad un periodo dell'espansione dell'attrazione che l'università ha avuto sui giovani, e quindi in un momento nel quale, perché noi dobbiamo considerare un fatto, ovvero sia che gli studenti che si iscrivono adesso entreranno nel mondo del lavoro nei prossimi 5 anni, quindi a 5 anni da questo momento, quindi in uno scenario che può essere anche radicalmente cambiato da un punto di vista sociale ed economico. Avremo meno laureati nel mondo del quindi, lavoro. Esatto, quindi ci dobbiamo aspettare, che ovviamente sono numeri che ancora sono indice di un trend, non sono un collasso, un crollo, ecco, quindi su questo voglio essere abbastanza chiaro, però chiaramente è un qualcosa, è una tendenza che noi dobbiamo invertire, perché storicamente l'Italia ha sempre avuto un basso numero di laureati rispetto alla forza lavoro disponibile sul mercato, e un minor numero di laureati corrisponde a una minore qualità della forza lavoro. Ecco, ma rispetto a quanti poi si diplomano, qual è diciamo il collo di bottiglia, dove vanno a finire? Sono diminuiti anche i diplomati o diciamo i licei continuano a sfornare numeri costanti di diplomati, poi a un certo punto c'è una dispersione, fanno altre cose, non prendono la laurea, non cercano l'università? Guardi, la questione è in questi termini, ma credo che su questo probabilmente, se voi riportate i numeri di Alma Laurea che fa proprio delle indagini sui laureati, noi abbiamo sicuramente un vantaggio competitivo della persona laureata rispetto alla persona diplomata. Quindi su questo voglio essere ancora altrettanto chiaro, scegliere la laurea è chiaramente un vantaggio competitivo sul mondo del lavoro. Questi tutti i dati ce lo confermano. Quello che stiamo assistendo in quest'ultimo periodo, anche probabilmente a causa della crisi economica, è che c'è un rallentamento di questo vantaggio competitivo, ma che chiaramente però è un dato che poi va anche riferito al fatto che anche i diplomati soffrono di più della mancanza di possibilità e opportunità di comunque lavoro. Il laureato avrebbe più chance di un diplomato, certamente, certamente. Banalmente percepibile e comprensibile, capito? Ci sono qualche idea sulle cause per questo tipo di abbandono, a parte quelle di tipo emotivo che possa avere rozzamente elencato io all'inizio? Noi ovviamente non è nostro compito né abbiamo la capacità di poter sviluppare o comprendere quali sono le cause, perché questi sono fenomeni piuttosto recenti. Possiamo sicuramente ipotizzarne alcuni, come un pochetto di sfiducia che hanno i giovani attualmente nei confronti delle possibilità che gli può offrire il futuro, perché consideri anche che il vero problema non è soltanto il fatto che questi ragazzi non si iscrivono all'università o si iscrivono meno all'università, il problema è che poi neanche riescono a trovare un lavoro, quindi c'è un'area grigia di disagio giovanile, di ragazzi che terminati gli studi superiori né lavorano né studiano né quindi si stanno attrezzando per il futuro che verrà, quindi sono in una sorta di limbo. Quindi io credo che ci sia un atteggiamento psicologico nei confronti appunto di un certo pessimismo riguardo al futuro e probabilmente anche un difetto di comunicazione che noi abbiamo nei confronti di questi ragazzi per cercare di indirizzarli verso le scelte più proprie che gli si confanno maggiormente alle loro aspirazioni, alle loro inclinazioni, alle loro proprietà culturali che posseggono. Forse preferiscono fare lavori più pratici, sanno che per entrare subito nel mondo del lavoro e quindi guadagnare, quindi mantenersi uno status di vita che gli faccia sentire adeguati ai modelli legati alla loro fascia d'età, alle loro giuste aspirazioni, preferiscono dire vado a fare l'idraulico, l'elettricista, il falegname, sì. Lavori che immediatamente comunque posso guadagnare. Potrebbe ma ben venga, però ce ne fossero, però non mi sembra nemmeno sì, questo. Appunto, infatti, probabilmente diciamo così, cercano di approcciare il mondo del lavoro, però questo mondo del lavoro chiaramente non è un mondo del lavoro facile, quindi probabilmente si accontentano anche di lavoretti, di lavori precari, eccetera. Finché hanno le famiglie però che tamponano comunque, che mantengono. Certamente, chiaramente in Italia poi la famiglia ha un ruolo sociale di ammortizzatore che è fondamentale. Sentiamo però qualche ascoltatore, fermiamo un attimo solo, sentiamo Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io chiamo da Catanzaro e intervengo per dare un po' la mia esperienza personale. Io credo che i ragazzi delle scuole, sia le scuole superiori sia l'università, vengano raccontate un po' delle favolette, e cioè che ci siano delle facoltà che danno più lavoro rispetto ad altre. Ad esempio? È una grande bugia. Ad esempio? Guardi, io sono stato, ho fatto parte di quella scia di studenti che hanno scelto le facoltà tecniche, perché negli anni 90 andava molto di moda diventare ingegneri informatici. Oggi il mercato è saturato da ingegneri informatici che sono stati svalutati, per cui oggi cercare un lavoro come ingegnere informatico non dà più quelle grandi aspettative. Perché ce ne sono troppi, ce ne sono tanti. Perché ce ne sono troppi, è stata raccontata una favoletta negli anni 90 che il futuro era nella tecnologia, quando invece il futuro è nei talenti e nelle capacità di ciascuno. Non esiste la facoltà che dà più lavoro, esiste la facoltà per cui uno è portato. Però se mi permette, Massiliano, esiste la facoltà che quasi automaticamente non dà chance di lavoro, questo sì. Assolutamente no, anche perché oggi il mondo del lavoro è molto variegato, oggi vanno molto però ormai il mondo è così vario che c'è un'integrazione tra le varie discipline, non c'è più il classico lavoro, l'ingegnere, l'avvocato, il medico, ma c'è quello che magari ha studiato architettura e si interfaccia con i fiorai per andare ad abbellire degli spazi, delle vetrine, ci sono una serie di sì, ma io ad esempio mi viene in mente, visto che lei calabrese ha citato, ho amici all'Università di Cosenza che sono ingegneri informatici, poi sono anche ingegneri gestionali, quindi creano spin-off legati all'università, si danno da fare, insomma, cercano di muoversi su vari fronti e riescono comunque a dare un senso ai loro studi. Forse non bisogna proprio aspettare che ci arrivi a casa qualcuno a chiamarci, a dirci questa è la tua grande occasione. Sentiamo Enzo. Enzo, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Anche io volevo portare un po' la mia testimonianza. Io fondamentalmente allora sono d'accordo sul fatto che la laurea non garantisca una locazione adeguata sul mercato del lavoro. Le parlo io che sono laureato in medicina, le assicuro che con la sola laurea in medicina non si fa assolutamente nulla, se non dei lavoretti veramente anche un po' denigranti da un punto di ma vista. Ma quando è stato diversamente da così, oltre i felici anni 60, l'immediato dopoguerra, e non parliamo, quando mai c'è stata una laurea che dava sicurezza? Perché questo problema me lo ricorda anche la mia generazione. Ma io sono assolutamente d'accordo, il paradosso più grande... Sempre stato così... Sì, in effetti è vero, ma il paradosso più grande è che io parlo, tra virgolette, sono uno dei fortunati, perché diciamo che in medicina ovviamente è un mondo un po' a parte, perché fa parte di quelle facoltà che effettivamente rispetto ad altre permettono una locazione un po' più snella in termini di tempo sul mercato del lavoro, ma le assicuro che nonostante uno faccia i 6 anni di medicina e faccia i 4, 5, 6 anni di specializzazione, riuscire a mettersi sul mercato del lavoro, io chiamo dalla Campania che è un po' un inferno dantesco per quanto riguarda la sanità, è complesso davvero e spesso è denigrante, perché attualmente insomma si offrono dei contratti veramente insomma irrisori. Poi non entriamo negli specifici delle baronie, dei familismi, delle vie chiuse, perché aumenta ancora di più la complessità. Antonio, buongiorno. Antonio. Spenga la radio. Buongiorno. Sì, spenga la radio. Eccomi qua, lo spenta, sì. Buongiorno, io ho 35 anni e diciamo che forse posso rappresentare quell'anello comunicante tra i neolaureati, che sono laureati da 28 anni, e chi è già da un po' nel mondo del lavoro. In cosa io è laureato? Dei colloqui in economia, marketing, dove ti spiegano che il marketing è una cosa scientifica, poi va nelle aziende, in realtà il marketing è tirare fuori dei dati facendo dei lavori che io ritengo... ho un amico di 10 anni che se sta con me una settimana quelle analisi di marketing le possa fare in non più di un mese. È un concetto, quindi, diciamo, che sta cominciando un pochino a dare i segni del suo tempo, l'idea del marketing. Ma poi l'università crea tante illusioni che poi sul mondo del lavoro quello che conta è il pragmatismo, è la volontà, è l'impegno. Io faccio dei colloqui, vado all'università di scienze motorie per chiedergli di darmi dei laureati per inserirli nell'azienda dove lavoro e mi si dice sì, ma questi ruoli un laureato non li può fare. E allora ti rivolgi a delle persone che magari non hanno la laurea, ti metti tu l'impegno di formarli, in 3 mesi, 4 mesi sono formati, e hai delle persone che però hanno una motivazione maggiore. Ecco, quindi quando lei avrà un figlio e dovrà prendere qualche decisione, aiutarlo a prendere una decisione, come pensa di comportarsi? Ma la laurea sicuramente crea degli ottimi presupposti, consegna degli ottimi strumenti. Quindi non ci piove, la laurea va presa. Non ci piove, però la differenza la fa la persona, la disponibilità, il talento. Io ho un amico che ha deciso di non laurearsi e ha aperto un bar e guadagna 3 volte me, perché lui ha compensato, niente gratis, vuol dire che il mercato gli riconosce comunque un valore, quindi la laurea non ti dà un diritto, ti dà un'opportunità che poi sta a te sfruttare, quindi la responsabilità, io questi laureati che si lamentano, non trovo lavoro, sediamoci un attimino e facciamoci delle domande. Allora sentiamo Fabio Naro, segretario generale del CUN, a cui ho fatto sentire una sventagliata di prime telefonate, me ne stanno arrivando tante, il problema è sentito. È possibile, già dalle telefonate dei nostri ascoltatori si individua comunque delle criticità ambientali o geografiche, ma fra nord e sud, rispetto ai suoi dati, è possibile dare qualche elemento un pochino più preciso su questo abbandono dell'università? Beh, dunque, innanzitutto io mi sembra anche un, di percepire da quello che hanno detto i suoi ascoltatori che nessuno dà un parere negativo sul valore della laurea, quindi corrisponde a quello che ha detto lei all'inizio. Esatto, sì. Quindi cioè che comunque il possedere una laurea, oltre ad avere, diciamo così, ad essere un valore personale di straordinaria importanza, è una base imprescindibile. Ma soprattutto perché immaginiamo la possibilità che una persona nel momento perché si scrivono meno? Probabilmente si scrivono meno perché hanno, diciamo così, meno fiducia della possibilità di poter trovare un lavoro adeguato anche allo sforzo e al sacrificio che fanno. Però questo molto dipende anche dalla struttura del mercato del lavoro italiano, che ha sempre avuto storicamente una difficoltà ad assorbire i laureati. E d'altro canto, anche se noi vediamo i nostri dati, la diminuzione di questa spinta all'immatricolazione, all'accesso al mondo universitario è più forte proprio nelle regioni del sud, dove chiaramente le difficoltà poi di trovare un lavoro adeguato sono maggiori. Senta, mentre invece il nord, certo, e il nord-est sostanzialmente tiene abbastanza. Mi sembra che il punto sia chiaro. Riassumendo in una battuta, è percepito ancora il valore e l'importanza di avere una laurea, nonostante questo comincia a essere più forte il senso di sfiducia generalizzata, di lasciarsi andare comunque al corso degli eventi, e quindi anche questo passo sembra fondamentale per una sorta di masochistico senso di autodistruzione, non viene più considerato come qualcosa da fare. 800 24 0024, saluto Fabio Naro, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Quanto costa far studiare un figlio all'università? Mantenere uno studente all'università fuori sede costa a una famiglia italiana non meno di 7.000 euro all'anno, e questa è l'ipotesi più economica. I costi delle tasse annuali dell'università variano dai 700 euro per facoltà umanistica agli 800 euro di una facoltà scientifica, con punte di 1.300 euro. Per comprare i testi del primo anno accademico si devono sborsare mediamente dai 400 agli 800 euro. Se si è studenti fuori sede, bisogna preoccuparsi di vitto alloggio, e i costi, secondo Adiconsum, diventano davvero proibitivi. Per avere una stanza in affitto in appartamento in condivisione si spendono circa 500 euro al mese. E anche le mense non sono così economiche. In media bisogna pagare altri 220 euro al mese. Questo senza contare spese impreviste, i vestiti, i mezzi di trasporto e tutto quanto sia necessario per vivere. Le spese decollano quando si decide di iscriversi ai master universitari, che hanno un prezzo medio di 6.000 euro, ma si arriva fino a 19.000 euro per un master in ingegneria della durata di 24 mesi. Ne vale veramente la pena? Secondo me sì, vale la pena. Poi ognuno pensi quello che vuole. Investire nel futuro dei figli, dando loro strumenti il più possibile raffinati e concreti di entrata nel mondo del lavoro, è comunque la maniera migliore per spendere i soldi. Io adesso non sono un maestro nel confrontare le cifre, non ho nemmeno gli elementi a disposizione, ma quando spende mediamente una famiglia italiana in generi voluttuari per i figli, dall'adolescenza all'età del mantenimento costante, che può andare ad arrivare anche oltre i 30 anni, e quanto spendono i ragazzi in musica, microelettronica, vacanze, divertimenti e via dicendo. Io ricordo che adesso sembra sempre, quando uno dice ricordo, c'ha già un piede nella fossa, che però le scelte erano drastiche. Chi studiava fuori sede doveva tagliare fortemente le proprie ambizioni di vivere una felice adolescenza. Ricordo sane, intelligenti e generose ragazze pugliesi, vivevano in 5-6 in un appartamento, non pensavano certo a vestirsi, ma stanno lì perché dovevano studiare, anche una grande occasione per noi autoctoni della città universitaria. Ricordo comunque che erano anni, sì, di spensieratezza, ma anche di notevole sacrificio. Non si può avere entrambe le cose. Questo almeno è un mio banalissimo e superficiale punto di vista. 800240024, stiamo analizzando dei dati concreti, oggettivi, proclamati con grande clamore dalla stampa, ma confermati dalle persone che stiamo via via chiamando al telefono. Gli italiani, pur sapendo, avendo consapevolezza e cognizione che un titolo di laurea ancora è la condizione base essenziale per accedere al mondo del lavoro, sta notevolmente, in percentuali abbastanza preoccupanti, abbandonando l'idea di iscriversi all'università, di frequentare l'università, di terminare un corso universitario. Continuiamo a sentire anche i nostri ascoltatori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Alessandria. Sono la mamma di una laureata di 26 anni, con laurea specialistica in letteratura, la quale sta lavorando in Cina e ha accettato per un grande gruppo per il quale lavora di lavorare là 2 anni. Quando mia figlia mi chiese di laurearsi in italianistica, quasi tutta la famiglia disse: oh mamma mia, poi non si trova lavoro. E invece noi ci siamo detti che forse la cultura sarebbe stato in futuro un bene così raro da consentire un buon lavoro. Così è stato. Però Giulia è arrivata alla laurea parlando perfettamente inglese e francese e studiando, facendo stage ovunque, in pratica impegnandosi tanto. Quindi volevo dire che anche studiando italianistica, se c'è impegno, consapevoli che la vita sicuramente deve avere una meta, ma è fatta di tappe e una volta raggiunte vanno superate, si può ugualmente avere successo amando la letteratura e la poesia. Cioè, diciamo, sua figlia è l'esempio di un impegno a 360 gradi determinato a raggiungere un obiettivo, che sì, sceglie una facoltà umanistica che sembra perdente come scelta, ma la sua ambizione non era poi vincere un concorso, andare a insegnare lettere in un liceo, ma era quello di arrivare al top. È andata in Cina dove probabilmente c'è richiesta perché l'Italia è fra parte delle aree di colonizzazione dei cinesi, quindi è normale che vogliono sapere tutto su di noi. Approfittando di questo momento, sua figlia ha fatto anche una scelta coraggiosa, ha fatto un taglio radicale con le sue abitudini, con la sua famiglia. Anche questo mi diceva Fabrizio Intonti, di una sua amica laureata in architettura, che con Italia avrebbe fatto i progetti dei pollai, è andata a Parigi, sta lavorando come una disperata, nel senso tantissimo. Occorre anche, come diceva il buon Piero Celli qualche tempo fa anche a questi microfoni, prendersi, avere la possibilità, la capacità di essere elastici e, se necessario, preordinare e preventivare un periodo in cui si abbandonano abitudini, famiglia, tranquillità, amicizia, amore, via dicendo, e si va a cercare in giro. Luca. Sì, buongiorno. Allora, io intanto sono d'accordo con quest'ultimo intervento, anche con quello che ha detto lei riguardo la... Lo sa Luca una cosa, a dire queste cose sono le cose sentito dire dai miei genitori quando io ero studente universitario. Da un certo punto di vista mi dà tristezza, vuol dire che tanto tempo è passato. Da un altro punto di vista mi dice che esistono in realtà delle linee di saggezza. Io sono sempre stato uno scriteriato nei confronti delle saggezze altrui, delle linee di saggezza che rimangono e valide generazione per generazione comunque. Sì, infatti su questo sono d'accordo. E riguardo a questa cosa invece volevo intervenire, voglio dire due cose. La prima cosa riguardo quello che ha detto un ascoltatore. Lei chi è innanzitutto? Lei cosa fa nella vita? Chi è, studente, universitario, padre, genitore, allora, figlio? Io sono post universitario, diciamo, io ho fatto fisica all'università e ho un PhD in roba di microelettronica, insomma. Roba interessante, sembrerebbe. Esattamente, studi avanzati, molto interessanti. Quindi è un fisico che poi, diciamo, ha scelto, come molti fisici, la maggior parte delle persone che oggi parlano di informatica partono da basi fisiche, studi di tipo fisico, sono lavati in fisica. E quindi lei ha, diciamo, uno spettro vastissimo e interessantissimo. Esattamente. Allora partiamo, visto che mi ha fatto la domanda su che cosa faccio io, le volevo fare appunto un appunto che si ricollega poi anche a questa... ultima ascoltatrice sul fatto di andare in Cina piuttosto che... Il problema è proprio un problema italiano, cioè nel senso io sono ormai laureato da 10 anni, ho fatto un PhD e lavoriamo all'università con progetti sulla stazione spaziale, stiamo parlando, cioè lavoriamo in collaborazione con la NASA eccetera. Nonostante questo io sono precario comunque da 10 anni, non per fare numeri, però secondo me è importante anche della dignità che diamo allo studio, e poi dice perché gli italiani non vogliono più andare a studiare. Precario da 10 anni, rinnovato di anno in anno, eccetera, e adesso forse mi fanno un contratto che mi danno 1800 euro al mese, fino a 2 mesi fa ne guadagnavo 1200. E lei cosa vorrebbe? Se io fossi, diciamo, il mago con la bacchetta magica, esprima un sogno irrealizzabile in una battuta. Più di un sogno irrealizzabile. Uno. Io adesso ho iniziato a guardarmi un po' intorno all'estero e per andare a fare lo stesso lavoro che faccio io, cioè per le qualifiche che ho qui, mi offrono almeno 3 volte tanto lo stipendio. E allora perché non ci va? E infatti sto vedendo, ma se mi prendono vado di corsa. Però per dire del problema italiano, cioè nel senso, in Italia è vero che cioè forse si è sfiduciati, perché in Italia si punta sempre in basso, perché i laureati non si vogliono, perché sennò poi potrebbero prendere troppo, allora si dà lavoro a quelli più diciamo meno qualificati. Però eccetera, guardi, eccetera. Alla sua età io onestamente non ne faccio un problema di orgoglio nazionale. Se ha la chance, se ha le qualifiche per andare, ci vada, può sempre tornare in Italia con maggiori titoli e maggiori chance, non stia a perdere tempo e aspettare che qualcuno poi l'assuma quando avrà 50 anni, perché poi lo stipendio non cambierebbe nemmeno molto. Io impegnerei il momento in cui si è liberi e abbastanza elastici il più possibile e farei fruttare il massimo i propri studi. Abbiamo al telefono il professor Andrea Cammelli. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È direttore di Alma Laurea, che appunto è il consorzio interuniversitario che ha fatto il suo rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati, è professore di statistica presso l'Università di Bologna e Alma Laurea appunto ha appena pubblicato questa indagine sulla condizione occupazionale dei laureati. Lei ha avuto modo di sentire queste ultime 2 telefonate. Rispetto, diciamo, al vostro rapporto e la vostra indagine, trova dei punti di coesione, di corrispondenza rispetto a quello che hanno detto velocemente questi ascoltatori? Ma assolutamente sì, perché trovo che in effetti la prima ascoltatrice che parlava della figlia che ha studiato fare lettere e poi oggi lavora in Cina, la trovo in grande sintonia con tanti obiettivi che vedo lì con lanciare e proporre da tanti ragazzi che escono naturalmente dall'università, che sono delusi, ma che poi fanno questa scelta, come lei ha sottolineato, di rivolgersi al... Però allora su questa questione, devo dire, noi viene molto spesso interpretata in modo molto severo la fuga dei cervelli, io per carità sono convinto che sia in effetti una situazione che va guardata con molta attenzione, penso però che almeno nei primi anni post-universitari, francamente, un'esperienza all'estero sia un elemento di arricchimento che potrebbe essere utile anche per il paese. Qual è l'aspetto che l'ha messo? Diciamo che il vostro rapporto è una cosa ben concreta, avete coinvolto 400.000 laureati. Oltre 400.000 laureati. Quindi non è una cosa che ha dei margini di credibilità, direi concreti. Senta, le posso chiedere una gentilezza, professore, che mi sono un po' dilungato. Mando solo un istante, do la linea all'informazione del traffico, poi siccome è interessante vorrei farlo con calma, ragioniamo un attimo su quella che è la vostra ricerca. Tra un istante. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. E Marta cominciò il pellegrinaggio presso tutte le case editrici specializzate in testi filosofici e scolastici in genere. Tanti luoghi diversi, ma la formula di congedo fu sempre la stessa. Grazie. Le faremo sapere. Le faremo sapere. Le faremo sapere. Le faremo sapere. Ok, Stedina, ti faremo sapere. Grazie, cara. Ti faremo sapere. Arrivederci. Grazie, grazie a voi. 800240024, siamo interrotti un istante fa con il professor Andrea Cammelli, che è il direttore di Alma Laurea, l'istituto di statistica che ha appunto elaborato questa indagine sulla condizione occupazionale dei laureati in Italia, che come abbiamo sentito prima sono in diminuzione percentuale rispetto agli anni passati. Quindi con Alma Laurea cerchiamo di capire in realtà cosa sta accadendo nel mondo dei laureati o di coloro che, pur sapendo che la laurea è un elemento importante per avere delle basi di speranza di lavoro concrete, in realtà cominciano a perdere affezione per questo tipo di iter. Professore Andrea Cammelli, riprendiamo quello che ci stavamo dicendo prima. Sì, dicevamo prima, stavamo parlando un po' di questi ragazzi che vanno all'estero. Dicevo che inizialmente è chiaro che anche dal nostro punto di vista e da quello che vediamo rappresentato dai vari laureati che abbiamo intervistato, non ci pare un aspetto negativo, del tutto negativo. L'elemento, anche perché quando abbiamo fatto i confronti a livello internazionale, rileviamo che la percentuale di giovani laureati che vanno all'estero è sostanzialmente analoga nei vari paesi europei. C'è un elemento però fondamentale che va sottolineato, è che mentre negli altri paesi assieme al flusso in uscita c'è un consistente flusso in entrata, quindi di altri laureati con altre specializzazioni, che fa realizzare un saldo positivo, in Italia viene il contrario, cioè il flusso in uscita resta grosso modo all'altezza di quello che avviene in altri paesi, ma noi non riusciamo a fare intervenire, a fare entrare nel nostro paese, nelle nostre aziende, nei nostri centri di ricerca eccetera, i laureati più migliori, più bravi, più specializzati di altri paesi. E quindi è chiaro che questo è un saldo negativo totalmente, che dobbiamo assolutamente... Se non c'è quella necessaria contaminazione fra competenze, in realtà poi crea una dinamica, crea... Però risponderebbe, cioè, ma sai, il solito discorso, cioè, non c'è lavoro per i nostri, figuriamoci, possiamo prenderli là fuori. Questo credo che una delle osservazioni che abbiamo rilevato, insomma, attraverso queste indagini, attraverso anche le indicazioni... Ecco, ma c'è un dato, scusi, un dato su quanti laureati in Italia poi trovano lavoro, perché questo è il punto di tutto. È evidente, non c'è dubbio. Senta, naturalmente le cose cambiano a secondo che a un anno, a tre anni, a cinque anni. Noi abbiamo intervistato 400.000 laureati a 1, 3, 5 anni dalla laurea. E allora, naturalmente, la situazione migliora nel tempo, si capisce. Per laurea si intende laurea quella vera come una volta o anche la laurea... L'indagine è stata fatta a tappeto, quindi ha riguardato sia i laureati di primo livello, quindi la laurea triennale, così, poi la laurea specialistica, cioè il 3+2, poi le specialistiche a ciclo unico, cioè la vecchia laurea in medicina e chirurgia sostanzialmente, in architettura e veterinaria. Ora, su tutti e tre i livelli di laurea che il Bologna Process ha realizzato a livello europeo e in Italia, noi abbiamo rilevato una riduzione della condizione occupazionale, sia ad un anno dalla laurea, che a tre anni dalla laurea, che a cinque. Naturalmente il quadro quindi sembra assolutamente sconfortante. Ecco, c'è un aspetto però che bisogna ricordare, che nonostante la riduzione dell'occupazione che abbiamo registrato da diversi anni a questa parte, nonostante questo il laureato resta ad ogni livello quello che ha un tasso di occupazione più elevato rispetto a chi si è fermato prima negli studi, essendo il diplomato. Quindi mi sembra aver capito, il dato generale che potremmo dire non è un paese per laureati questo, comunque sia... Sempre meglio essere laureati che non avere la laurea, se si vuole comunque avere un percentuale di speranza più alta di poter lavorare. È una sintesi troppo rozzamente abbozzata. No, va bene, naturalmente semplifica molto, per forza. Dico, ciò che presenteremo domattina per bene a Bologna in questo convegno internazionale che facciamo. Ah, quindi abbiamo l'anticipazione di quello che direte domani a Bologna? Sì, perché abbiamo aperto una riflessione, visto che il laureato, io sono convinto, non è un prodotto per il quartiere, sono sempre convinto che il laureato è un prodotto per il mercato globale, quindi è giusto che si muova, è giusto che giri, eccetera, eccetera. E noi abbiamo aperto una riflessione che domani comincerà alle 9:30 in Santa Lucia a Bologna, aperto a tutti i ricercatori dell'area euro-mediterranea. Abbiamo allargato i confini anche al sud. Beh, sarà interessante, se poi avrete dei dati che possono arricchire o dare delle sorprese, possiamo risentirci. La saluto, professore, sento gli ultimi ascoltatori. Ivan. Dottor Nicoletti, eccomi. Le telefono da Giarre in provincia di Catania. Bello che oggi tutti mi chiamano dottore perché ho detto poi ho preso una larga veramente ridicola, non mi è servita a nulla, poi ho avuto una botta di fortuna bestiale di scoprire che la gente... Ho visto dal suo pedigree, dal suo curriculum, sì, che pedigree, mica sono un cane. Che io abbiamo iniziato intorno agli anni 80 a fare giornalismo, anche se io faccio la... Sì, ma io mi ero scritto una finta lettera di un inesistente zio arcivescovo per trovare lavoro, quindi quello che avevo fatto non mi era servito a nulla. Dottor Nicoletti, senta, intanto le do un dato suggestivo da casa mia, perché oggi sono abbastanza libero, vedo l'Etna che è in una condizione stupenda, piena di neve, con un sole splendido. Va bene, questo mi fa piacere. Questo può far bene ai nostri... Se sta a casa non c'ha un piffero da fare, quindi ha un problema. In questo momento, tant'è vero che ho trovato il tempo per telefonare. Allora, senta, dottor Nicoletti, le dico alcune mie suggestioni o impressioni sulla questione economica. E parto da una telefonata che feci qualche anno fa alla prima pagina a Radio 3 la mattina. La giornalista Di Gregorio, quando io dissi che se fossi stato presidente della regione... Mi duole, fa male più a me che a lei, ma non può parlarmi citandomi una radio concorrente e dirmi quello che ha detto la collega Di Gregorio. Quindi è stato segato. Gianfranco. Sì, buongiorno. Sente? La motosega non risparmia nemmeno i laureati, lo devo dire. Prego. Pronto, mi sì, sente? L'ascolto bene, sì. Sì, buongiorno. Io desideravo intervenire per così comunicare la mia esperienza. Io ho un figlio che attualmente sta lavorando all'estero da quasi un anno, mm-hmm. e ha trovato lavoro praticamente subito, è laureato in ingegneria navale, ma è laureato molto bene, con lode, insomma è una persona particolare. Io quello che gli ho consigliato a suo tempo e che lui ha fatto e che gli ha servito moltissimo è di differenziarsi dagli altri, cioè di evidenziare la propria identità di ingegnere rispetto agli altri. E gli ho consigliato di studiare le lingue, cosa mi ha dato retta a suo tempo, conosce correntemente tre lingue e questo è stato l'elemento qualificante che gli ha consentito di trovare subito uno sbocco. Ecco, anche questo sì, questo mi sembra una buona idea, un buon suggerimento, non soffocare le proprie attitudini, lo dico perché anche un figlio che studia il giapponese, sembra una follia, dico che ci vai a fare, gli piace il giapponese, che gli piacciono i manga e studia il giapponese, non è detto che fra qualche anno sarà la fortuna aver studiato giapponese per piacere, perché a lui piacciono fumetti e cartoni animati giapponesi, piuttosto che gli studi che faticosamente gli imponiamo di fare noi genitori. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.